piano. Di Enrico Ruggeri. Non è semplice dare la definizione della parola carisma. Cos'è il carisma? È quell'ascendente particolare che si ha sugli altri, è un'influenza che è determinata da un mix di autorità, saggezza, prestigio, fascino, soprattutto tanto fascino, quello che rende una persona così attraente da far sentire soggiogati quelli che stanno davanti a questa persona. Poi però bisogna cercare di capire come si ottiene questo carisma, se è nel DNA o se lo raggiungi strada facendo. E in pratica la domanda è: si può costruire a tavolino il carisma o si nasce così? E oggi ci sono corsi per imparare a parlare in pubblico, a vestirsi, a truccarsi, a pettinarsi, per alcuni naturalmente, per sapersi valorizzare, per acquistare fiducia in se stessi. Ognuno di noi può migliorare con la volontà, con la disciplina, però il carisma è difficile da insegnare, è ancora più difficile da imparare. Forse quello che ci può aiutare è conoscere le vite di quelli che il carisma sicuramente ce l'hanno avuto, è stato riconosciuto da tutto il mondo. E oggi noi racconteremo proprio la storia di una donna che è stata da sempre considerata una delle icone più carismatiche che siano mai esistite. Un'attrice, una cantante che ha saputo usare al meglio le sue doti, il suo fascino, che però ha anche studiato tutta la vita per esaltare queste sue capacità, che si è saputa costruire un'aura straordinaria. Una donna intelligentissima, anticonformista, molto coraggiosa. La nostra protagonista di oggi è Marlene Dietrich, una delle più grandi dive del mondo cinematografico della prima metà del Novecento, l'icona leggendaria, la femme fatale per antonomasia, e anche peraltro una delle prime figure androgine del mondo dello spettacolo. È anche una grande cantante, e i giovani sicuramente la conosceranno quantomeno per il suo cavallo di battaglia, quello che è considerato il suo inno. Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Lili Marleen, forse la canzone tedesca più famosa in assoluta, una delle canzoni più conosciute nel mondo, è stata tradotta in tantissime lingue, cantata da tantissimi interpreti. E pensate che è una storia incredibile, perché le parole sono quelle di un poemetto tedesco che si chiama La canzone di una giovane sentinella. È stata scritta da un soldato durante la prima guerra mondiale. La musica è stata composta successivamente nel 38 da un musicista di marce militari. La cantava una famosa interprete tedesca dell'epoca, Lale Andersen. Il testo è decisamente antibellico, però piaceva molto al feldmaresciallo Erwin Rommel, che aveva contribuito a renderla popolare tra i soldati tedeschi. E allora il ministro della propaganda di Hitler, Joseph Goebbels, decise di proibirla perché la riteneva quantomeno inopportuna, direi sovversiva. Marlene Dietrich, che come vedremo è stata un'oppositrice del nazismo, ha abbandonato la Germania agli inizi degli anni 30 e si è impossessata di questa canzone nel 1944, le ha dato una veste fantastica, un'interpretazione carismatica, l'ha trasformata nel successo mondiale che noi tutti conosciamo, ma soprattutto l'ha eletta la canzone simbolo di tutti i soldati del mondo che si trovano al fronte. E questa non è che una delle tante scelte coraggiose, dei colpi d'ala di questa donna che per un lungo periodo si è inimicata ai suoi conterranei, e anche dopo la fine della guerra non è stata amata tantissimo dai tedeschi, che in un certo senso l'hanno giudicata una traditrice della patria. Lei però si è sempre fatta vanto di fare scelte coraggiose, anticonformiste, non si è preoccupata di piacere, di compiacere, come tutti i grandi. Il grande non deve preoccuparsi di piacere, è sempre andata avanti per la sua strada con questa determinazione nazione che definirei prussiana, e, ma non lo dico a caso prussiana, perché lei, Mary Magdalene Dietrich, questo è il suo nome completo, nasce a Schöneberg, che è un quartiere di Berlino. Siamo nel 1901, il 27 dicembre. Il padre si chiama Louis Heinrich Otto Dietrich, che è un ufficiale dell'esercito prussiano. Lei riceve un'educazione che sarà determinante nelle sue scelte future. Disciplina, la disciplina che lei manterrà sempre nella sua vita, nella vita professionale, ma anche in quella privata. Il padre l'aveva educata come un soldato. E lei, che all'apparenza era molto lontana dal modo di vivere di un militare, però dentro di sé si sentiva così: un bravo soldato. Ich hab dich lieb. E se lei impara la disciplina e la capacità di accettare il sacrificio dal padre, in realtà dalla madre, Elisabeth Felsing, che era figlia di un famoso gioielliere di Berlino, impara l'arte di riconoscere il bello, la capacità di apprezzare il genio, anche un certo glamour che la accompagnerà per tutta la vita. Lei nasce con questo dono, ha una musicalità spiccatissima. A 4 anni comincia a studiare il violino, il pianoforte, con ottimi risultati. Poi ha uno strappo ai legamenti di un dito e questo le compromette per sempre l'uso agevole della mano. Insomma, deve abbandonare l'idea di diventare una concertista. E però quante vite sono state pilotate da un evento apparentemente sfortunato all'inizio, e poi i colpi d'ala si fanno così. Lei infatti non si perde d'animo, perché sa cantare molto bene e si diploma in canto all'Accademia di Berlino. Le piace molto anche recitare, frequenta la Kammerspiel, la scuola fondata dal famoso regista Max Reinhardt. Da questa scuola usciranno giovani promesse della regia tedesca, e uscirà anche la grande Leni Riefenstahl, portavoce del cinema di quei tempi, il cinema nazista, ma anche Friedrich Murnau, Fritz Lang e perfino la grandissima Greta Garbo, altra diva carismatica. Anche lei frequenta quei corsi di recitazione, e come spesso accade agli allievi di queste scuole, Marlene ottiene dei piccoli ruoli nei lavori teatrali, anche nei film muti di Max Reinhardt. Nel frattempo si sposa e non ha ancora 22 anni, sposa l'aiuto regista Rudolf Sieber. Un anno dopo nasce la sua unica figlia Maria Elisabeth. È un matrimonio aperto, insomma stiamo parlando del 23, quindi è abbastanza strana la cosa. Matrimonio aperto, non c'è obbligo di fedeltà, non c'è obbligo di convivenza. Lei non è la moglie ideale, ha molti amanti, non solo uomini ma anche donne, già, perché lei è dichiaratamente bisessuale, lo sarà tutta la vita, non nasconde questa sua inclinazione, che peraltro nella Germania di quegli anni non è una cosa così strana. Ci sono molti locali gay per sole donne a Berlino, il più famoso è il Pyramid, che lei frequenta abitualmente insieme a Clary Waldorf e a Margot Leon, due cantanti e attrici come lei, entrambe sue amanti. Nel 29 arriva per lei il suo primo ruolo come protagonista, il film si chiama Enigma, un film muto, il suo personaggio è già la figura caratteristica che bene o male lei interpreterà sempre, una donna bellissima e misteriosa che fa innamorare follemente gli uomini. Quello stesso anno, durante una rappresentazione teatrale nella quale lei ha una piccolissima parte, lei fa un incontro destinato a cambiarle la vita. In platea c'è un regista, si chiama Joseph von Sternberg, è un austriaco, è molto famoso, ha già fatto diversi film muti molto apprezzati, sta iniziando un nuovo importantissimo lavoro, il primo film sonoro realizzato in Germania. Il film si chiamerà L'angelo azzurro. Ascoltiamo il ricordo di quell'incontro da lei, da Marlene Dietrich. Well, it all began that he came to Germany. Iniziò tutto perché lui venne in Germania e guardò tutte le attrici che gli proponevano i produttori, ma non gliene piacque nessuna. Nel senso che nessuna rappresentava la sua idea del personaggio. Allora iniziò a girare per tutti i teatri per vedere i lavori che si rappresentavano in quei giorni a Berlino. E anch'io stavo recitando in una commedia, ma dicevo una sola frase. Mi vide e chiese ai produttori di chiamarmi la mattina seguente, ma io non capivo. Conoscevo il libro da cui avrebbero tratto il film, ma non c'era una piccola parte per una donna. Lui mi disse: «Non hai capito, è per il ruolo di protagonista». Io mi alzai. «Non fa per me, lei si sta sbagliando», dissi. Lui mi rispose: Siediti, avrai quel ruolo. Io pensavo che non sarei mai stata in grado di farlo, di recitare quella parte. Il libro a cui si riferisce Marlene Dietrich è Professor Unrat di Erich Mann, fratello di Thomas Mann, e il film che ne viene tratto rappresenta una pietra miliare non solo del cinema tedesco, è il primo film sonoro prodotto in Germania, è un film storico, la tematica è piuttosto scioccante per l'epoca, la vicenda è quella del rispettabile professore di ginnasio che si innamora di una cantante di varietà, Lola Lola, amore che lo porterà alla perdizione e alla morte. E poi c'è il debutto ufficiale nel mondo del cinema di Marlene Dietrich, che dà a Lola Lola una connotazione inedita. Lei pensava di non essere pronta per questo ruolo, ruolo per il quale erano state viste tante altre attrici, tra l'altro Leni Riefenstahl, che non venne presa, e questo fu un bivio comunque che portò bene anche alla Riefenstahl, perché da quel momento cominciò a interessarsi di regia con i trionfi che sappiamo. Comunque, torniamo a Marlene. Lei si rivela un'interprete straordinaria, una grande cantante, è una costumista, perché si disegna gli abiti di scena, li confeziona personalmente, e se andate a vedere il film vi renderete conto della genialità di questi costumi inediti, provocanti, molto caratterizzanti, come il cappello a cilindro che lei indossa mentre canta, scelte molto personali, coraggiosissime, che verranno copiate da tutti. Per esempio in Cabaret Liza Minnelli si ispira a lei, ma anche Madonna si ispirerà moltissimo a Marlene Dietrich, soprattutto alla Dietrich dell'Angelo Azzurro. I often stop and wonder why I appeal to men, how many times I blunder in love and out again. Adesso col senno di poi appare evidente il valore di Marlene Dietrich, però quando il regista la vede per la prima volta è stato veramente bravo a aver intuito in un attimo e con una sola battuta tutte le potenzialità di questa ragazza, che era bella e particolare, ma insomma beccarla tra tutte, la verità è un'altra, o comunque c'è un'altra verità, che von Stenberg appena vede Marlene se ne innamora all'istante. Sarà un amore travolgente che durerà per molti anni, darà grandi frutti dal punto di vista professionale. Sì, Marlene intanto è sposata con Rudolf Sieber, ha una bambina, e peraltro lei non divorzierà mai da Sieber, quindi quello sarà il suo unico marito, ma abbiamo detto che lei è molto disinibita sul piano sessuale, non ha nessun problema a iniziare una storia con Sternberg. Molti anni dopo, in un'intervista del 67, lui dirà questo di Marlene: she's an extraordinary woman and è una donna straordinaria. Era una vera bellezza e una compagna di lavoro intelligente. Aveva una facilità di azione, rispondeva perfettamente. Mi rimandava un'immagine che molto spesso non era solo esattamente come la volevo, ma addirittura migliore. Lei era una burrasca. E queste sono le parole di un uomo che è ancora innamorato, anche se a distanza di così tanti anni. E lo racconteremo, di certi legami non si può fare a meno e non si recidono mai, rimangono per tutta la vita, questa è la mia idea. L'Angelo Azzurro ovviamente cambia la vita di Marlene Dietrich, il suo rapporto con Sternberg diventa qualcosa di travolgente, ma non tanto dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista professionale. Marlene Dietrich come attrice nasce qui, lui la plasma anche fisicamente, la fa dimagrire molto per farle assumere quell'aspetto drammatico che tutti conosciamo, le fa fare una cosa che appare quasi come una follia, la convince a farsi togliere tutti i denti molari, di modo che gli zigomi si mettano maggiormente in evidenza rispetto alle guance scavate. Oggi le attrici fanno altro, insomma, si rifanno da capo a piedi e poi si lamentano perché non le scelgono dopo che sono tutte rifatte. Ma comunque Sternberg fa anche altro, la fa mangiare in un certo modo, anche perché tra l'altro senza i molari certe cose non le puoi più mangiare, ma lei accetta, e il suo volto, trattato da le luci sapienti che lei ha sempre curato personalmente in maniera maniacale, diventa quell'immagine fatale che la rende una diva in poche ore, però per sempre. Lola Lola ha conquistato il mondo. L'angelo azzurro esce nelle sale cinematografiche berlinesi il 1° aprile del 1930. È un trionfo immediato e i protagonisti di questo trionfo non lo sanno ancora, lo scopriranno qualche ora dopo con l'arrivo sulla nave nella quale si trovano dei primi cablogrammi. Sì, perché Marlene Dietrich e Joseph von Sternberg sono in mezzo all'oceano, stanno andando negli Stati Uniti, vanno a Hollywood. Il 29 gennaio precedente i dirigenti della Paramount, quando il regista stava ancora montando la versione definitiva del film, vedono alcune scene e capiscono quello che sta per accadere. Propongono a Marlene un contratto di 6 anni per 6 film, sempre con Sternberg, da girare a Hollywood. Marlene, che non sta vedendo di buon occhio l'ascesa del nazismo in Germania, prende la palla al balzo, lascia marito e figlia e si trasferisce con Sternberg negli Stati Uniti. Il falco e il gabbiano. La nostra protagonista di oggi è una delle più grandi dive di tutti i tempi, l'icona della cinematografia mondiale, una donna che ha lasciato un'impronta indelebile attraverso la sua recitazione, le sue immagini, l'interpretazione delle canzoni. È la femme fatale per antonomasia, è Marlene Dietrich, donna anche ambigua, con un'immagine androgina, anticonformista, che non ha mai fatto mistero della sua bisessualità, che ha vissuto alla luce del sole relazioni con uomini e con donne famosissimi: Orson Welles, Erich Maria Remarque, Hemingway, Gary Cooper, Jean Gabin, Burt Lancaster, ma anche con quella che le case di produzione americane hanno continuato a indicare come la sua acerrima antagonista, con la divina Greta Garbo. E noi siamo arrivati all'aprile del 1930, siamo su una nave che sta portando Marlene Dietrich da Berlino a Hollywood. Lei è assieme al suo amante, al regista Joseph von Sternberg, quello che l'ha scoperta, che le ha fatto recitare nell'Angelo Azzurro, che sta diventando un successo stellare. Il 1° aprile del 1930 la prima proiezione proclama all'istante Marlene Dietrich una star. Perfino il grande attore Emil Jannings, che è quello che recita nel ruolo del professor Rath, viene, come dire, messo in secondo piano. E da questo momento ha inizio per lei una carriera gloriosa nei primi anni americani. È protagonista di 6 film diretti da Sternberg. Il primo è Morocco, che esce nel 1930, nel novembre, tra l'altro prima che arrivi l'Angelo Azzurro negli Stati Uniti, che uscirà solo il 5 dicembre successivo. E quindi per gli americani Morocco è il debutto di Marlene. E lei lì interpreta nuovamente una cantante di cabaret. Durante un'esibizione si veste da uomo in frac nero e bacia una donna del pubblico sulla bocca. Siamo nel 1930, ma non bisogna pensare che l'avventura americana di Marlene Dietrich sia stata subito una facile passeggiata verso il successo. Ascoltate cosa ha raccontato nel 71. It's true that I work hard, yes. È vero che io lavoro molto duramente. Posso lavorare tanto. Ho lavorato duramente tutta la mia vita e mi piace. Non mi pesa affatto. I don't mind at all. La sua educazione prussiana che viene fuori in queste cose, l'abnegazione, il senso del dovere, del sacrificio, e i frutti di questo lavoro però si sentono. Arriva una nomination all'Oscar per il film successivo Disonorata, dove lei interpreta una prostituta che diventa una spia durante la prima guerra mondiale. Anche questo film è un grande successo che conferma il sodalizio Dietrich Sternberg e si pone un po' in antitesi al film Matahari, l'altra spia. E lì c'era Greta Garbo, uno dei più grandi successi dell'attrice svedese, che uscirà pochi mesi dopo. Poi nel 1932 arriva Shanghai Express, un altro grande successo, e lei recita ancora nel ruolo di una donna perduta, una prostituta che esercita la sua professione tra Pechino e Shanghai, in una Cina sconvolta dalla guerra civile. È un'ambientazione esotica che fa da sfondo a una vicenda che la rappresenta come un inarrivabile ideale del desiderio. Lei viene esaltata dalla fotografia del grande direttore Lee Garnes, che per questo film vincerà l'Oscar. E poi c'è un altro film prodotto nel 1932, ha un grande successo anche questo, si chiama Blonde Venus, Venere bionda, e lei sconvolge il pubblico perché balla indossando un costume da gorilla, poi se lo toglie si mostra in tutta la sua bellezza. Poi c'è una novità l'anno successivo, viene diretta per la prima volta da un regista diverso, è un georgiano, si chiama Ruben Mamoulian, e le propone un ruolo differente, quello di una contadina tedesca che vive una passione d'amore travolgente a Berlino. Il film si chiama Il Cantico dei Cantici, è una parentesi, poi Marlene torna sotto l'ala protettrice di Sternberg, e ci sono ancora due film, L'Imperatrice Caterina nel 1934, gli esperti lo giudicano il lavoro migliore di Sternberg come regista, e poi Capriccio Spagnolo del 1935. C'è un aneddoto su questo film che mette in evidenza la grande professionalità di Marlene Dietrich. Sternberg aveva ideato questa scena in cui la protagonista, la bellissima Conchita Perez, cioè la Dietrich, è lì con in primo piano un palloncino che scoppia e mostra il volto della diva, e lui le chiede di restare impassibile allo scoppio del palloncino. Vi assicuro che è una cosa che non è semplice, provateci, è praticamente impossibile. Lei si sottopone a esercizi estenuanti, giorni e giorni di prove, poi riesce a eseguire la perfetta performance richiesta. Sono passati solo 5 anni dai tempi dell'Angelo Azzurro, ma Marlene Dietrich non è più la ragazza della prima pellicola, è una donna di 34 anni, è ricchissima, è potentissima, è una delle donne più ricche degli Stati Uniti, ha guadagnato in quegli anni $400,000 a film, è una cifra astronomica, cioè non riesco neanche a fare dei paragoni con oggi. E poi è famosissima per la sua vita privata, di lei si sa che è sposata ma che il marito vive a Berlino, dove lei non è più tornata, e per inciso ha anche una figlia che adesso ha 10 anni, che vive col padre. Si sa che ha una relazione fissa con Sternberg, con il quale ovviamente non è sposata. E poi si conoscono tutti i suoi tradimenti, che sono all'ordine del giorno, uomini, donne, però per lei le cose vanno diversamente dal resto dei personaggi famosi di Hollywood, perché a Hollywood insomma non si scherzava, ci sono molti attori, c'erano molti attori di Hollywood e attrici dei quali si vociferava, si sapeva dell'omosessualità, che però veniva nascosta, addirittura si parlava di lavender marriage, cioè letteralmente matrimonio al profumo di lavanda, e cioè si intendeva il matrimonio di copertura, che era una prassi molto frequente in quegli anni a Hollywood, dove magari degli attori che dovevano attrarre il pubblico femminile erano molto più femminili delle loro fan, e quindi dovevano sposarsi per far vedere che invece erano dei veri uomini. E poi c'era addirittura un regolamento speciale che si chiamava il codice ACE, che metteva al bando l'immoralità sia sullo schermo che nella vita privata degli attori. Però per Marlene Dietrich si fa un'eccezione, forse perché è straniera e forse perché a Hollywood c'è anche una lobby molto potente di attrici, sceneggiatrici e registe lesbiche. Negli anni 30 fanno il bello e il cattivo tempo, si riuniscono più o meno discretamente in quelli che definiscono ironicamente circoli di cucito, come li chiamava un'attrice lesbica molto famosa, era una russa, Alla Nazimova. Insomma, Marlene fa un po' quello che le pare, si pone anche al di sopra di tutte queste beghe hollywoodiane, continua per la sua strada, e questo suo atteggiamento la porta inevitabilmente alla rottura con Sternberg. Lui non riesce più a sopportarla, ha mandato giù troppi tradimenti, sta diventando come il professore dell'Angelo Azzurro, e così dopo Capriccio Spagnolo e il sodalizio arriva al capolinea. Lei però ormai è talmente famosa, ricca, che ha preso in mano la sua vita, può decidere di fare quello che più le piace, e questo non vale solo per la sua carriera d'attrice, per la sua vita sentimentale, vale anche per le sue posizioni politiche. Non ci dimentichiamo che lei è tedesca e in Germania quelli sono gli anni dell'ascesa di Hitler al potere. We shouldn't forget that the Germans... Non bisogna dimenticare che i tedeschi le hanno chiesto di tornare dopo tutti quei successi. Lei ha ricevuto delle offerte da Berlino, vero? Yes, I did. Sì, è vero. E cos'è successo? Beh, c'era Hitler a quel tempo e non volevo tornare. Ma le offerte erano buone. Oh, le offerte erano magnifiche, ma Io non ero interessata. Non volevo tornare mentre lui era lì. Insomma, Marlene Dietrich non intende tornare in patria fino a quando ci sarà Hitler. Non solo. Nel 1937 riceve la cittadinanza americana e allo scoppio della guerra collabora attivamente con gli Stati Uniti. Dopo l'entrata in guerra degli americani nel 1941 comincia a portare spettacoli di intrattenimento alle truppe al fronte. Va in Nord Africa e in tutta Europa. Il falco e il gabbiano. Il personaggio Dietrich ormai si è consolidato, è una donna fatale, solitaria, intelligente, indipendente, con una fortissima carica sensuale che lei indirizza a uomini e a donne. È una figura affascinante e fascinosa, carismatica, in persona l'ideale di stile, di eleganza, di self-control che va tanto di moda negli anni 30 e negli anni 40. E dopo la fine della sua storica collaborazione col suo Pigmalione e il suo amante, il regista Joseph von Sternberg, lei continua a interpretare grandi film prima dello scoppio della guerra, una decina di film, la commedia brillante Desiderio, dove veste i panni di una bella ladra di gioielli che fa innamorare il bel Gary Cooper, e poi naturalmente lui si innamora anche nella vita reale. Poi arriva Angelo, Partita d'azzardo, La taverna dei sette peccati, L'ammaliatrice di René Clair, poi arriva la guerra e la sua avversione nei confronti della Germania nazista diventa sempre più evidente e va a accompagnare le truppe alleate in Nord Africa e addirittura sul suolo europeo. E qui la canzone di Marlene acquista la sua dimensione mondiale, diventa il simbolo, la universalizzazione del conflitto, propone l'idea di una guerra non tanto contro le potenze, una guerra a favore della democrazia. Della libertà. È stato un periodo duro, non è stato facile, ma è stato anche bellissimo. Prima siamo andati in Africa, in Sicilia, in Italia. Poi siamo andati a Roma, ad Anzio, dove siamo stati parecchio perché non si poteva entrare a Roma. E poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Poi siamo andati in Inghilterra e in Francia, e lì il fronte era vicino a Namur, che gli americani chiamavano Namur toujours l'amour. E in certi momenti il fronte era lì, in altri non era più il fronte e noi andavamo avanti e indietro. La guerra in Europa, lo sapete, terminò nel maggio del 45, ma la guerra giapponese era ancora in corso, così io tornai negli Stati Uniti. Ma il conflitto ebbe termine prima che io mi imbarcassi per quel fronte. Eravamo semplici soldati. Avevamo un grado solo in caso di cattura, eravamo capitani e avevamo tutti paura di essere catturati, naturalmente. Io avevo molta paura. Per il suo operato sul fronte, per la sua attività durante il conflitto, Marlene Dietrich è la prima donna della storia che riceve nel 1947 la Medal of Freedom, che è una decorazione importantissima creata dall'allora presidente Harry Truman per onorare i civili che hanno aiutato gli Stati Uniti durante la guerra. Poi la guerra lascia il posto alla ripartenza e lei riprende a lavorare. Ci sono ancora molti film, c'è Scandalo internazionale di Billy Wilder nel 1948, Paura in palcoscenico nel 1950 diretta da Alfred Hitchcock, poi c'è Il giro del mondo in 80 giorni del 1956, poi c'è una tripletta di film straordinari, Testimone d'accusa del 1957, meraviglioso, ancora con Billy Wilder, con Tyrone Power e Charles Laughton, andatevelo a vedere, è un thriller fantastico. E lei dimostra ancora, se ce ne fosse bisogno, la sua grande intensità di attrice, ascoltatela in questa scena molto drammatica nella sua voce originale. I will not stand here and listen to a pack of lies. That letter's a forgery. It isn't even my letter paper. It isn't? No. I write my letters on small blue paper with my initials on it. Like this? Damn you! Damn you! Damn you! Mrs. Hill! Let me go! Let me get out of here! Let me go! Mrs. Hill! avete sentito qua, si capisce tutto lo spessore della donna, dell'interprete. E lei prosegue, fa un altro film bellissimo nel 58, si chiama L'infernale Quinlan di Orson Welles. Anche Orson Welles ovviamente si innamora perdutamente di lei. Poi nel 61 arriva Vincitori e Vinti di Stanley Kramer, per il quale lei conquista il Davide Donatello. E ormai lei ha 60 anni ma rimane sempre bellissima e continua a dare grandi prove di attrice. Poi cominciano naturalmente a mancarle i ruoli che l'avevano sempre vista, come la seduttrice, l'ammaliatrice, e allora si reinventa e inizia una fortunatissima, peraltro anche pagatissima, che non guasta, una fortunatissima stagione di recital nei teatri più prestigiosi del mondo. Porta le canzoni dei suoi film, intrattiene il pubblico con monologhi estemporanei, tiene a battesimo un giovane pianista che si chiama Bert Bacharach, che diventa l'arrangiatore e il direttore della formazione che l'accompagna nei suoi spettacoli. Ma il carisma è anche e soprattutto assenza, sapere quando cominciare a diradare le proprie partecipazioni. Lei peraltro negli anni 70 comincia a essere vittima di diverse cadute durante i suoi recital, comincia a avere problemi di salute, comincia a sparire e solo David Bowie la convince a tornare un'ultima volta sugli schermi. Il film è Gigolò, siamo nel 78. Dopo questa ultima apparizione non la si vedrà mai più. Dopo 8 anni di totale immobilizzazione a letto muore il 6 maggio del 92. Lei ha 91 anni. Aveva detto una frase che può sintetizzare molto bene la sua vita. Capisci che l'amore è finito quando hai detto che saresti arrivata alle 7, arrivi alle 9 e l'altro non ha ancora chiamato la polizia, allora conviene uscire di scena. Ecco, forse tra i tanti colpi d'ala di questa donna incredibile, il più grande è stato quello di capire quando era il momento di uscire di scena. Quando il carisma diventa leggenda, questa è la storia che noi abbiamo raccontato oggi. Riuscire a fare innamorare non solo le grandi persone, ma il pubblico, la critica, a creare attorno a sé quest'aura, è cosa che è successa a poche donne nel Novecento. Sicuramente una di queste, la principale forse, è lei, è Marlene Dietrich. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure al nostro sito, oppure venite a trovarmi nei miei social, nei nostri social, insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.